Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Vorrei essere a Madrid, al Santiago Bernabéu in curva. Invece mi trovo nel bel mezzo del Mar Tirreno, su una nave crociera insieme a circa 1500 studenti delle scuole superiori diretti a Palermo. E tutti e 50 i televisori della nave trasmettono un documentario sulla vita di Giovanni Falcone. Sono Marco, 34 anni, vivo a Torino e faccio l'insegnante. Noi viviamo quotidianamente seguendo delle regole sociali. Delle regole che abbiamo imparato, che abbiamo appreso, magari nemmeno in maniera diretta, in maniera tacita, però sappiamo che ci sono delle cose tipo ridere ai funerali, ad esempio, che non si fa, ci sono altre che sono brutte da raccontare in alcune situazioni, insomma ci sono situazioni in cui è meglio essere opportuni piuttosto che inopportuni. Sto parlando di cose legali, non cose dannose. Sto parlando però di quelle cose che a un certo punto, per qualche strano motivo, tu non riesci a non fare. È più forte di te, anche se vai contro quelle regole sociali. Oggi io vi devo veramente chiedere un piccolo sforzo. Vi devo chiedere di mettervi una mano sulla coscienza e per mezz'ora, 40 minuti, fino alla fine della puntata, dimenticare il vostro animo moralista e ben pensante. Ce l'abbiamo tutti, ma c'è chi ce l'ha grande, chi ce l'ha più piccolo, però tutti quanti abbiamo un piccolo animo che ha un suo moralismo e un suo modo di essere ben pensante. Vi chiedo di dimenticare tutto il vostro sapere essere opportuni, precisi, il vostro essere integerrimi e ligi ai canoni del buon vivere sociale. Vi chiedo di andare a scavare in quella parte di voi che non è integrata o aderente al pensiero comune eretto e giusto, quello che ci insegnano da bambini, quel modo di agire attraverso il questo si fa e il questo non si fa, ma soprattutto quel modo di agire del questo non si fa perché è inopportuno, perché non sta bene. Ecco, vi chiedo di scavare lì oggi e di portarla alla luce quella parte di voi che non raccontereste, che so, alla maestra di vostro figlio, ad esempio, o al vostro capo. Vi chiedo di fregarvene per un attimo di quello che è opportuno fare e quello che non lo è, e di ammettere: sì, è vero, quella cosa è inopportuna, ma è più forte di me e non riesco a non farla. È inopportuno ridere ai funerali, ma non ne manco uno in cui non scoppi a ridere manco fosse al cabaret. È inopportuno dire parolacce davanti ai miei figli, ma quando la mia squadra prende gol non riesco a non dirle. È inopportuno fare battute a sfondo sessuale davanti a sconosciuti, ma non riesco a non farlo. È inopportuno urlare in un luogo affollato, anche se è per far ridere la mia ragazza, ma non riesco a non farlo. È inopportuno, ad esempio, non andare alla recita di Natale di mia figlia, all'asilo, perché devo andare alla partita di poker del mercoledì, ma oh, non riesco a non farlo. È inopportuno, lo so, ma è più forte di me. 800240024. Oggi avrei proprio voglia di sentirvele raccontare queste cose, cioè di ammetterle serenamente. Guardate, lo so, è inopportuno, non si fa, non tanto è sbagliato, non stiamo parlando del bene e del male, stiamo parlando di quello che in teoria socialmente sarebbe meglio non fare, ok? Dei piccoli episodi, uno, cioè se ne fate più di uno va bene, ma una piccola storia, come appunto quella di dovevo andare a parlare con gli insegnanti di mia figlia, però c'ho il calcetto il martedì, lo so, guardate, è inopportuno, però il martedì non ce la faccio a non andare. 800240024 per chiamare in diretta, oppure 349-238-6666. E io oggi cercherò anche di non cadere nello stereotipo del mettere le mani avanti, per dirvi che la storia di oggi, la storia che ci ha mandato Marco, è l'emblema, è la quintessenza di tutto ciò. Il fatto di trovarsi in una situazione in cui c'è un valore altissimo in gioco, come il concetto di antimafia in questo caso, come il concetto di celebrazione di eroi che entrano nella storia e tu, molto banalmente, vorresti vedere una partita di calcio. È inopportuno, non si fa, ma è più forte di me. 800240024, oppure 349-238-6666. Ma anche quello che ci scrive, guardate, Angelo, ad esempio, sul profilo Facebook. Voi siete qui Radio 24. Una vacanza in un campeggio esclusivamente macrobiotico. Sono passato dall'altra parte del campeggio e mi sono fatto una mega colazione al bar. Lo so, è inopportuno, ma è più forte di me. 800240024.

Beh, io ho visto tutta la mia vita dall'adolescente le filmati delle partite del Milan che vinceva le Coppe dei Campioni, la Juventus che spesso perdeva in finale, diciamo, e quella era anche abbastanza una gioia. Quella era la prima finale, l'ultima coppa l'aveva vista mio padre, era in bianco e nero. Vabbè, direi che, guarda, più che il racconto è il tono che basta, Marco. Io lo posso capire, no, non tanto per ti fare la stessa squadra, ma perché non, è un'altra questione, insomma, è una questione di tifo e probabilmente è inopportuno. Tu la percepivi quella forma di inopportunità, giusto? Però era evidentemente più forte di te. Assolutamente, io l'ho percepita tutto il giorno. addirittura da prima di partire, addirittura solo il pensiero di essere su una nave, di voler vedere una partita invece che il documentario ti torturava. Ma più che altro, quando siamo saliti sulla nave siamo andati a una riunione per tutti i docenti, sì. Ed è lì che ho scoperto che c'era questa documentaria che sarebbe stato trasmessa, e il fatto che mi fossi incavolato durante la riunione e subito mi sono pentito. Certo. Perché c'erano tutti gli altri insegnanti che avevano tra i 25 anni, più di me, anche di più, che erano tranquilli, anzi, avevano uno sguardo di approvazione. Certo, certo, cioè, lo posso immaginare. Mi dici che cosa insegni, Marco? Quest'anno insegno informatica. E mi spieghi invece cosa significa, non posso nemmeno essere definito precario, perché sarebbe un gradino in più? Ti spiego, i precari sono quelli che hanno l'abilitazione all'insegnamento. Io invece quell'anno ero stato chiamato dalle graduatorie d'istituto e io sono solo laureato, quindi con la laurea insegnavo, non avevo l'abilitazione. Ah, ok, ok. Quindi il percorso per diventare insegnante è uno dei gradini, dei tanti. E adesso a che punto sei, scusami? E adesso, martedì prossimo, tenteremo questo concorso. Ah, certo, questo famoso concorso che vale per tutti, giusto? Esattamente. Ah. Cioè, che vale per tutti, vale per tutti, diciamo, quelli che vogliono accedere al. Sì, hanno l'insegnamento, hanno l'abilitazione oppure hanno una laurea di ordinamento. Senti, che giorno è esattamente? Martedì. Martedì. E che tipo di domande ci sono? Cultura generale? Ci sono domande di logica matematica. Visto che alcuni miei amici trovano tantissima difficoltà a risolvere, anche se sono bravissimi a risolvere versioni di greco. E, poi ci sono domande di lingua straniera, domande di italiano. Ma nel senso che ti devi preparare, senti di doverti preparare, oppure più o meno una persona che ha una media preparazione, che insegna già, dovrebbe essere a posto? È abbastanza strano, perché se uno ha fatto un po' di matematica è molto avvantaggiato, secondo me. Ah, ok, perché ha a che fare con la logica. Logica, sì. Ok, sì. Senti, invece mi spieghi, tu quando è che hai iniziato a insegnare, Marco? Ho iniziato a insegnare 5 anni fa. Che cos'è che spinge un ragazzo di 29 anni a fare un mestiere, insomma, complicato, direi, come l'insegnamento? È sicuramente complicato, però ho sempre dato ripetizione e la cosa mi piaceva abbastanza. Io poi sono ingegnere gestionale e questo è un lavoro completamente diverso. Però ho voluto tentare quella strada e ho mandato un curriculum a certe scuole della Valle d'Aosta. Un giovedì mi hanno chiamato, lunedì iniziava la scuola e boom. E boom. E boom. Senti, invece come va con gli studenti? È così difficile? Tu sei una generazione avanti a loro, no? C'è proprio più o meno una generazione in mezzo. È così difficile parlare a dei ragazzi di 15-16 anni? Ma non necessariamente. Adesso nella scuola dove insegno qua a Torino, praticamente sono in mezzo come generazione tra loro e i loro insegnanti, diciamo, di ruolo. Per cui sono, diciamo, riesco anche abbastanza a legare, e con il calcio è comunque sempre un buon argomento per legare okay. Con i ragazzi. Quello lo immagino. Senti, Marco, ti ringrazio moltissimo, ti faccio in grazie bocca al lupo per la tua carriera. Grazie. E per il campionato. Ciao Marco, grazie. Speriamo. Ciao, grazie mille. 349-238-6666 800-24 0024. Costantino da Milano, non riesco proprio a fare a meno di sbirciare il cellulare del mio vicino in metropolitana mentre manda sms. È un problema. So che non si deve fare, ma è più forte di me. È in un posto che credo non sia in Italia. Deve essere probabilmente in Texas. No, non in Texas.